sí es especial. Ti invidio secreto, sai sempre cosa fare e che cosa è giusto. Tu sei così sicura di tutto intorno a te, che sembri quasi un'onda, un'onda, un'onda, un'onda che si trascina me. Lascia stare che qualche anno in più, e meno male che sei convinta tu. Io sto uguale e chiedo solo se faccio male a volte a ridere di te. Stanno in cielo e i sogni non lo so, so solo che sono pochi quelli che s'avverano. Lo so che sei una donna onesta, non lo so, e soprattutto con se stessa, beh, con se stessa forse lascia stare che ho qualche anno in più, e meno male che c'hai ragione tu. Io sto uguale e adesso penso che chissà quante volte hai riso tu di me. Chissà quante volte